La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla rielezione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ospite ai nostri microfoni, Vincenzo Lippolis, docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi Internazionali di Roma, autore, insieme a Giulio Maria Salerno, del saggio appena pubblicato dal Mulino dal titolo La Repubblica del Presidente. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla religione mormone, politicamente potente e basata su fede, famiglia e vita sobria. La parola adesso va a Dino Pesole. La rielezione di Giorgio Napolitano al Quirinale è la prima in assoluto nella storia della Repubblica. Non a caso è stato utilizzato l'aggettivo storico per illustrare l'eccezionalità di questa scelta, avvenuta, come abbiamo visto, dopo che si era registrata l'effettiva impossibilità di convergere su un nome condiviso. La Costituzione non contempla la rielezione, ma nemmeno la esclude. In sostanza, i nostri padri costituenti stabilirono che il mandato di 7 anni rappresenta un sufficiente arco temporale nel corso del quale il Presidente della Repubblica può esercitare il suo mandato, prevedendo implicitamente la logica del ricambio. Questa volta è andata diversamente e lo stesso Napolitano, nel suo discorso di insediamento che apre il suo secondo mandato, vi ha fatto esplicito riferimento. La rielezione per un secondo mandato del presidente uscente non si era mai verificata nella storia della Repubblica, pur non essendo esclusa dal dettato costituzionale che in questo senso aveva lasciato, come si è significativamente notato, schiusa una finestra per tempi eccezionali. Ci siamo dunque ritrovati insieme in una scelta pienamente legittima, ma eccezionale. Se esaminiamo la storia dei presidenti che lo hanno preceduto, possiamo avere conferma che nel corso del tempo è profondamente mutato il ruolo stesso che i costituzionalisti definiscono a fisarmonica del capo dello Stato, soprattutto dalla presidenza Cossiga in poi, anche per effetto della crisi che ha investito il sistema politico. Il primo presidente della Repubblica è Enrico De Nicola, fine giurista, un uomo di cultura ottocentesca che di fatto si trova a dover traghettare il paese che ha appena scelto con il referendum del 2 giugno 1946 la Repubblica. Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, è un giurista napoletano che, pur essendo da sempre di orientamento monarchico, non ha nascosto il suo atteggiamento critico nei confronti della corona durante il ventennio fascista. Ha fatto parte della Consulta Nazionale come presidente della Commissione Giustizia. Esita a lungo prima di accettare la nomina. È il pomeriggio del 26 giugno 1946, quando l'Assemblea lo elegge presidente con 396 voti su 504. Dopo la breve presidenza di De Nicola, al Quirinale si insedia Luigi Einaudi. È l'epoca dei governi centristi presieduti da Alcide De Gasperi. L'ex governatore della Banca d'Italia imprime alla sua presidenza un carattere di grande sobrietà. Interviene nel corso del settennato su tutti gli aspetti della vita politica, amministrativa e sociale. Poi è la volta di Giovanni Gronchi, cattolico, democristiano, di fatto un battitore libero, da sempre schivo da dipendenze e condizionamenti. Gli succede Antonio Segni per una presidenza breve, brevissima, dal 1962 al 1964 e subito dopo Giuseppe Saragat fino al 1971. Un socialdemocratico al colle. Un primo segnale di novità? Nel 1971 si insedia al Quirinale Giovanni Leone, il primo capo dello Stato costretto alle dimissioni. Sono gli anni delle trame nere, delle bombe al treno Italicus e a Piazza della Loggia, dei complotti, come quello della Rosa dei Venti, del golpe bianco di Edgardo Sogno e Luigi Cavallo. Ma anche gli anni degli opposti estremismi, con la morte del procuratore generale Francesco Coco e del sostituto procuratore Vittorio Occorsio. Una striscia di sangue che si allunga fino al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Nel 1978 al Quirinale si insedia Sandro Pertini, socialista, uno dei presidenti più popolari e amati degli italiani. Nel suo settennato la presidenza della Repubblica entra in diretto contatto con i cittadini e Pertini ne interpreta ansie e aspettative in uno dei periodi più bui della storia repubblicana, quello del terrorismo. Infine le ultime tre presidenze, prima di quella di Napolitano, vale a dire la presidenza di Francesco Cossiga, quella di Oscar Luigi Scalfaro e poi quella di Carlo Azeglio Ciampi, che imprimono, seppur con caratteristiche e impronte personali assai diverse l'una dall'altra, una svolta nel ruolo del Presidente della Repubblica del nostro ordinamento. E proprio di questo, del ruolo del Capo dello Stato, alla luce del settennato di Napolitano appena trascorso e della sua rielezione, parliamo con il professor Vincenzo Lippolis, che è docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi Internazionali di Roma, che è autore insieme a Giulio Maria Salerno del saggio appena pubblicato dal Mulino dal titolo La Repubblica del Presidente. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, un titolo profetico La Repubblica del Presidente, professor Lippolis? Profetico riguardo alla rielezione l'abbiamo considerata scrivendolo, certo usciva un po' dal novero delle cose probabili, anche conoscendo la sua ritrosia alla rielezione. Noi abbiamo voluto giocare su questa inversione delle parole Presidente della Repubblica, la Repubblica del Presidente, per sottolineare il grande ruolo che in quest'ultimo settennato la Presidenza della Repubblica ha giocato nella vita politica italiana. Ecco, un ruolo che potremmo definire anche di supplenza, e non solo nel settennato di Napolitano, anche in quello di Ciampi, ad esempio, rispetto alla crisi verticale che ha investito i partiti. Non a caso, in corrispondenza di questa crisi, si sono ampliati appunto i poteri cosiddetti a fisarmonica del Presidente della Repubblica. Sì, è esattamente come dice lei. Vi è un processo che è iniziato con la crisi della prima Repubblica, con la presidenza Scalfaro, poi Ciampi e poi dopo Napolitano, in cui vi è stata una sorta di latitanza progressiva dei partiti politici, questa rissa, anche questo antagonismo così esasperato, ha chiamato in gioco il ruolo del presidente e ha esaltato tutti i poteri che la Costituzione gli attribuisce, ma soprattutto ha esaltato il suo ruolo, come dire, di mediatore, di persuasore, anche con interventi al di fuori di quelli formali, con quella che gli anglosassoni chiamano moral suasion. Ecco, a proposito di moral suasion, sia nella presidenza Napolitano che, tornando a ritroso, anche in quella di Ciampi e forse anche in quella di Scalfaro, alcuni costituzionalisti hanno detto che si è andati forse in tal modo un po' oltre le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, attraverso forse un eccesso di capacità, di volontà di mediazione che in qualche modo non è prevista dalla Carta. Lei condivide questo giudizio? Non condivido questo giudizio, se non per alcuni elementi, come dire, abbastanza marginali, e ora lo spiegherò. Secondo me Napolitano è rimasto nell'ambito del modello costituzionale, nell'ambito di quello che è il ruolo del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato in un regime parlamentare, proprio perché il regime parlamentare è fatto di questo continuo adattamento. Il sistema dei partiti e presidente sono un po' come dei vasi comunicanti. Se i partiti si ritraggono, il ruolo del presidente si amplia. Secondo me l'anomalia di questi anni Non è stato l'interventismo di Napolitano, ma è stato il decotto sistema dei partiti che non ha funzionato e non ha fatto funzionare, come vorrebbe il modello costituzionale, il rapporto tra Parlamento e governo. Io gli unici aspetti, non solo di Napolitano, ma anche di Ciampi, perché aprì questa prassi, forse così, che si potrebbero discutere, sono gli interventi nel corso del procedimento legislativo. Ecco, sì. Però non mi pare che si sia trattata di una invadenza rispetto al potere legislativo, anche perché sono sempre stati guidati da motivazioni di carattere costituzionale. Sì. E tra l'altro, questo vorrei sottolineare, questi interventi presidenziali non hanno trovato un contrasto da parte non so, dei presidenti delle Camere, del governo, degli altri organi costituzionali, e si è arrivati alla rielezione di Napolitano, è stata vista come un momento liberatorio per l'intera classe politica. Grazie professor Lipolis, grazie ancora per questi chiarimenti e buona serata. Grazie a voi, a presto. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla religione mormone, un viaggio negli Stati Uniti insieme allo storico David Eisenbach. Oggi i mormoni hanno raggiunto la vetta del potere finanziario e politico americano. Il mormonismo è la prima religione per ricchezza pro capite e rapidità di espansione. Ma l'America non è sempre stata così tollerante con i mormoni. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda mercoledì 1 maggio alle 14.45 su History Channel. La famiglia del fondatore del mormonismo, Joseph Smith, si trasferisce 5 volte prima che lui compia 11 anni e finalmente si stabilisce nella città di Palmyra, a ovest di New York. Suo padre si diletta in una forma di predizione del futuro chiamata cristallomanzia, in cui si guarda in un cristallo o un minerale per rivelare segreti nascosti. A 13 anni anche Joseph inizia a praticare la cristallomanzia per cercare tesori e si fa una discreta reputazione. Nel 1825, quando Joseph ha 20 anni, viene assunto da un vecchio contadino della Pennsylvania di nome Josiah Stowell per cercare un filone d'argento nella sua fattoria che, secondo lui, era stato scavato dai conquistatori spagnoli. Joseph riceve un generoso salario, vitto e alloggio, ma non trova argento. Quindi viene processato e condannato con l'accusa di essere turbolento e impostore. La condanna mette fine alla carriera di Joseph come cercatore di tesori e rinuncia per sempre alla cristallomanzia. Ma 18 mesi più tardi dichiara di aver scoperto un altro tesoro sepolto e questo avrebbe cambiato la storia. Joseph Smith racconta che una notte del 1823 riceve la visita di un angelo chiamato Moroni. L'angelo gli dice di un antico testo sacro scritto in geroglifici, inciso su tavole di oro massiccio sepolte 1400 anni prima, sotto una roccia di una collina nei paraggi. Lui individua la collina, guarda sotto la roccia e trova le tavole. Poi, con speciali occhiali avuti dall'angelo, riesce a tradurre il testo per un amico che lo trascrive. È la storia della tribù perduta di Israele, che, secondo la traduzione di Smith delle tavole, arriva in Nord America in barca 600 anni prima della nascita di Gesù. Il capo degli israeliti è un uomo di nome Lehi, che preferisce il figlio buono, Nefi, rispetto al cattivo Laman. Dopo la morte di Lehi, i seguaci di Nefi, o Nefiti, si separano dai sostenitori di Laman, o Lamaniti. i cattivi lamaniti insorgono e fanno strage dei nefiti, compreso il loro leader Mormon, ma non prima che riesca a scrivere tutta la storia su quelle tavole d'oro, che diventano il Libro di Mormon. Il Libro di Mormon dice che Dio ha deciso di punire i lamaniti per essersi scuriti la pelle. I loro discendenti dimenticano le loro tradizioni ebraiche e da questa tribù perduta di Gerusalemme deriveranno i nativi americani. Joseph riesce a convincere un amico a vendere la fattoria per finanziare la pubblicazione del suo libro di Mormon di 558 pagine. Una settimana dopo, Joseph incorpora la Chiesa mormonica e nel giro di un anno ha oltre 1000 seguaci. Joseph Smith dice di aver ricevuto tutti i comandamenti e i rituali mormonici direttamente da Dio. Ma alcuni di quei rituali sembrano essere influenzati dalla massoneria. Smith ne è membro e infatti raggiunge il grado di maestro massone. La cerimonia mormonica dalle sacre dotazioni ricorda un rituale massonico simile. Joseph Smith promulga una serie di rigide regole di condotta personale, ma il mormonismo attira seguaci perché in realtà è piuttosto liberatorio. Le prime religioni americane, come il calvinismo, tendono a focalizzarsi sulla dannazione e sul male intrinseco dell'uomo. Smith insegna che i suoi seguaci sono il popolo eletto di Dio. Nel 1831 Joseph Smith fa un annuncio a sorpresa ai suoi seguaci. Dio ha ordinato loro di trasferirsi nel nuovo giardino dell'Eden, in Missouri. La popolazione locale non sopporta questo afflusso di migliaia di mormoni. I fuorilegge li prendono di mira, saccheggiano le loro città, bruciano le case e stuprano dozzine di donne. I mormoni reagiscono facendo razzie nelle città non mormone, incendiando le case e rubando le loro provviste. Nel 1836 il governatore del Missouri, Lilburn Boggs, impartisce un ordine terribile alla milizia di Stato. I mormoni devono essere trattati da nemici, esterminati o cacciati dallo Stato, se necessario, per la pace pubblica. Giorni dopo, la milizia lancia un attacco a sorpresa contro un insediamento mormone chiamato Hounds Mill. La maggior parte degli abitanti riesce a scappare nei boschi circostanti. In tutto vengono massacrati 18 mormoni. Per evitare che si ripeta, Smith guida i suoi mormoni oltre il confine di Stato, dove trovano la città di Nauvoo, in Illinois. Smith ha la tendenza a innamorarsi perdutamente di molte donne. Inizia a pensare che forse Dio non avrebbe disapprovato. Come può essere sbagliato se è così bello? Quindi si mette a praticare la poligamia. Beh, sua moglie Emma non è molto d'accordo e minaccia di prendere anche lei diversi mariti. Non è disposta a dividere il consorte con dozzine di accolite adoranti. La dichiarazione di poligamia di Joseph Smith fa infuriare i non mormoni e innesca una feroce disputa tra fazioni opposte di seguaci. Quando Smith viene arrestato, una banda di fuorilegge fa irruzione in cella e lo uccide il 27 giugno del 1844. Dopo la morte del loro leader 38enne, i mormoni sono costretti a scegliere un successore. I favorevoli alla poligamia, guidati da Brigham Young, vincono le elezioni e mettono a tacere il dibattito sulla questione almeno per un po'. Dopo il proscioglimento di tutti e 9 gli imputati nel processo per l'omicidio di Joseph Smith, scoppia la violenza tra mormoni e non mormoni, finché il governatore dell'Illinois offre un cessate il fuoco ai mormoni, a patto che se ne vadano, non solo dall'Illinois, ma dagli Stati Uniti d'America. Brigham Young finalmente decide di trasferire tutti in un'arida striscia di deserto nel territorio messicano. Il primo gruppo di profughi mormoni raggiunge il Grande Lago Salato nel luglio 1847. Circa un anno dopo il loro arrivo nella nuova patria, gli Stati Uniti annettono il territorio sottratto al Messico dopo la guerra messicano-statunitense. Brigham Young chiede il riconoscimento dello Stato. Il Congresso sancisce lo status territoriale per l'area e la chiama Territorio dello Utah dagli indiani Ute che vivevano lì. Brigham Young diventa governatore del territorio dello Utah nel 1850, ma in realtà è un re la cui parola è legge. Il suo popolo non solo lo ama e lo adora, ma lo considera un profeta in contatto diretto con Dio. Nemmeno il presidente degli Stati Uniti gode di un simile potere. Joseph Smith è profondamente contrario alla schiavitù. Brigham Young, invece, ha opinioni che oggi definiremo razziste. Sotto la sua guida, lo Utah diventa un territorio schiavista. Nel 1857, il presidente James Buchanan crede che, colpendo i mormoni favorevoli alla schiavitù, otterrebbe il favore degli abolizionisti del Nord senza contrariare gli elettori sudisti, unendo le due fazioni opposte in una guerra contro i nemici comuni odiati da tutti. I mormoni. Nel 1857, quando Buchanan viene eletto, la legislatura dello Utah annuncia di non voler applicare nessuna legge federale che considera ingiusta e che espellerà qualunque ufficiale federale che non viva secondo gli standard mormoni. Buchanan stila una lista di presunte attività illegali commesse dai mormoni e nel maggio 1857 invia 2.500 soldati federali armati fino ai denti per sottomettere il territorio dello Utah. Brigham Young evita il bagno di sangue accogliendo le truppe e dimettendosi da governatore, ma nel 1861 il governo federale ha problemi molto più grandi dei mormoni. Nell'estate del 1857 una carovana con circa 140 pionieri arriva in Utah dall'Arkansas. Si sparge la voce che alcuni di quei pionieri fossero coinvolti nel massacro di Hounds Mill in Missouri. Qualcuno dice di aver sentito uno di loro vantarsi di aver fatto parte della banda che ha ucciso Joseph Smith in Illinois. Il 6 settembre 1857, un gruppo di indiani e di mormoni, anche loro camuffati da indiani, attaccano i pionieri in una valle chiamata Mountain Meadow. Ma i pionieri dispongono i carri in circolo e resistono all'assedio per 5 giorni. Una volta arrivata, la milizia mormonica manda un emissario di pace per dire ai pionieri che li avrebbero protetti dall'attacco degli indiani. Gli uomini vengono fatti allineare in una fila singola. Dopo circa mezz'ora, il capo della milizia mormonica grida «Halt! Fate il vostro dovere!» Ciascuno dei miliziani spara a bruciapelo all'uomo che aveva in custodia. Nel giro di pochi minuti muoiono 120 pionieri. Si discute ancora se Brigham Young abbia ordinato o meno la strage. E oggi il massacro di Mountain Meadow rappresenta una pagina sanguinosa nella storia dei mormoni. Immaginiamo sempre i mormoni come persone gentili, sobrie, amanti della famiglia, ma sono anche molto tosti. Decenni passati a difendersi da persecuzioni e genocidi li hanno temprati con una tenacia che ha permesso loro non solo di sopravvivere, ma di prosperare. Sono dotati di un grande entusiasmo nel diffondere la loro fede e di uno spiccato senso per gli affari. Non è un caso che la religione americana di maggior successo sia la quintessenza dell'americanità. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo 10 cose che non sai dei mormoni. Regia di Mark Cole, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda mercoledì 1 maggio alle 14.45 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.